è nata ormai sono due o tre anni che nasce la mappa. La mappa come rappresentazione grafica in realtà di un lavoro più consistente, perché quello invece da 15 anni che portiamo avanti, di osservazione e registrazione dell'attivismo neofascista, con particolare attenzione agli atti di violenza e di aggressione, aggressività. In questo, sotto la mappa, ci sta questo archivio con migliaia di articoli, tra i 6 e 7 mila articoli, classificati per collocazione geografica, per tipologia di contenuto dell'articolo, quindi non solo le aggressioni ma anche le attività, anche quelle legali o paralegali. Tanti dossier sono contenuti in questo archivio e anche classificazioni per singolo gruppo, per, ripeto, per collocazione geografica e tipologia, insomma. Io invito a usarlo come strumento fondamentalmente, perché veramente c'è una ricchezza di materiale al suo interno che poi dà il polso di quello che è stato in questi 15 anni una purtroppo crescita di un movimento neofascista articolato. Intendo articolato perché i gruppi purtroppo sono diversi, anche se i due principali, appunto Casa Pound e Forza Nuova, coprono buona parte degli attivisti fascisti. Gli episodi sulla mappa dunque sono riconducibili a diverse organizzazioni. Io leggo una settantina di episodi riconducibili a Casa Pound, più di una ventina riconducibili a Forza Nuova e poi anche altre organizzazioni. Quali sono le cose di cui si macchiano? La maggior parte sono pestaggi a danno di soggetti deboli, tra virgolette, perché è da sottolineare la vigliaccheria di questi individui, perché nel confronto diretto di solito mancano, cioè non è difficile che attacchino un gruppo di antifascisti, per quanto sia capitato, però è veramente poca cosa rispetto invece alla molteplicità di aggressioni nei confronti fondamentalmente di migranti, di omosessuali, che sono una delle categorie più colpite, singoli antifascisti in imboscate di solito, o solo quando sono certi di una superiorità numerica. La questione relativa per esempio agli attacchi razzisti trova poi nell'area romana, con soggetti di Forza Nuova in particolare, uno degli episodi più disgustosi, che è stato anche definito sia dalla stampa che dagli inquirenti, quello dei Bangla Tour, cioè aggressioni su cittadini del Bangladesh ritenuti timidi, ritenuti non reattivi di solito alle aggressioni, faticavano persino a difendersi, ecco, e in questo venivano addestrati ragazzi ragazzini per lo più, ma anche più grande di Forza Nuova, per menare le mani su queste persone. Sono alcune decine gli episodi relativi a questa cosa. Queste organizzazioni non dovrebbero essere consentite, insomma. Assolutamente, figuriamoci. Con le dovute differenze, perché questi che sono nemici politici di qualunque antifascista, ovviamente, ma anche di democratici, al di là delle differenze, questi vanno ovviamente in violazione della Costituzione. E su questo io personalmente mi sento di stigmatizzare le istituzioni stesse, in particolare la politica, quella di chi ha il governo, tra virgolette, da sinistra o comunque dal centro-sinistra o comunque non fascista o comunque autodefinitosi antifascista, non è intervenuto quando era necessario e non interviene tuttora. Io faccio un esempio per paradosso. Ormai più di un anno fa è stato sgomberato XM24. Lo cito perché sul portale di Casa Pound l'azione è stata definita come la caduta di una roccaforte antifascista. Beh, XM24 non c'è più, mentre invece Casa Pound è ancora al suo posto. E questo nonostante un governo presuntamente antifascista, tra virgolette, che nulla fa se non dichiarazioni di facciata, presenze vagamente simboliche e altro, niente. Ovviamente non è solo la classe politica, c'è anche una magistratura inerme, quando non collaborativa, con i fascisti addirittura. Abbiamo veramente a volte l'idea e il sospetto che ci siano simpatie tra alcuni soggetti della magistratura e il sottobosco neofascista a cui fanno riferimento. A proposito di quanto siano veramente bestiali nel loro agire questi fascisti, vorrei ricordare che sono stati responsabili di molteplici omicidi. Qui non stiamo parlando solo delle aggressioni con pestaggi, ma ci sono stati una quindicina di omicidi in questi ultimi anni, compiuti da fascisti a carico di migranti ma anche di italiani. Ricordo uno per tutti, il caso di Niccolò Tomasoli. Lo ricordo perché ci sono analogie con quello che è successo in Grecia e con quello che è successo recentemente in Italia, con l'omicidio di Willy a calci e pugni. A suo tempo, nel 2008, fu ucciso Niccolò Tomasoli solida, militanti di Forza Nuova, e questa cosa fu vagamente sottaciuta, nonostante questi militanti di Forza Nuova, dopo averlo ucciso, scapparono in Inghilterra, che è la seconda patria di Roberto Fiore, e in questo furono accompagnati e coperti da altri militanti, e quando rientrarono in Italia furono difesi dagli avvocati di Forza Nuova. Quindi questa responsabilità, così come nell'omicisione del rapper in Grecia da parte di Alba Dorata, dimostra queste analogie e questa similitudine nelle azioni e nelle dinamiche di questi